piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Immaginate una situazione surreale quanto struggente. Una mamma che perde una bambina di 7 anni, la figlia di 7 anni, la rivede. Si trova al centro di un prato, un posto con delle citazioni crepuscolari, potrebbe essere un luogo di sepoltura. Improvvisamente, da dietro un albero, sbuca la figlia morta di 7 anni. Lei la vede e comincia a piangere. La bambina si muove in maniera molto realistica, proprio come si muoveva la figlia. Reagisce, interagisce con la madre. Questo è un esperimento che è stato fatto attraverso le tecniche più avanzate di realtà artificiale ricostruita attraverso la videografica. Il documentario televisivo si chiama I Met You, Ti ho incontrato, è fatto sulla storia di una donna sudcoreana, Yang, che ha perso la figlia di 7 anni e è stato possibile per lei riprovare l'esperienza di rincontrarla. O direte qualcosa di irreale, di crudele, di perverso. La tecnologia però questo permette. Oggi attraverso le forme più avanzate di intelligenza artificiale è possibile campionare e ricostruire una persona. Il cinema lo fa ormai in maniera abbastanza corrente. Attori morti e scomparsi continuano a recitare nei film. Ne abbiamo parlato più volte. La nostra mimica facciale, il nostro modo di muoversi, le nostre frasi ricorrenti possono essere campionate e possono essere reinserite, ve la faccio semplice, in una raffigurazione molto realistica della nostra faccia, della nostra persona. Possiamo essere inseriti in un ambiente artificiale e noi esistiamo nuovamente. Va avanti poi questo documentario, che è stato fatto e realizzato mostrando sia la mamma con il visore da realtà virtuale che vede la figlia, sia la soggettiva della madre di come vede sua figlia. Vede questa bambina struggente che la guarda e poi fa quello che ogni madre di bambino morto dovrebbe fare: fa una festa di compleanno. Mamma, darà sei cicatrici. Sono davanti a una torta di compleanno in un bel giardino con un gazebo, un ambiente ricostruito secondo la dimensione onirica ideale per una festa di compleanno con un bambino morto. Taglia la torta, si guardano, la bambina parla con la madre, primi piani struggenti, lo sguardo un po' triste alla bambina, come può avere lo sguardo triste la rievocazione di un fantasma di una bambina morta. Voi direte: perché ci vai a sentire tutta questa roba? Ve la faccio sentire perché è un esperimento, per adesso legato soltanto a una chiave estetica, perché non c'è in realtà la certificazione e la misurazione di quello che è l'aspetto emozionale, di quello che è lo shock emotivo di una persona che vede scompaginare le dimensioni temporali rispetto alla scomparsa, alla fine di una persona, la possibilità di poter rivivere emozionalmente il contatto con questa persona. C'è con molta discrezione la ricostruzione attraverso un film della madre, che si vede anche lei ricostruita in grafica 3D con il visore che guarda la bambina e interagisce con la bambina. Però con lo sguardo triste di questa bambina che taglia la fetta di torta di compleanno con la madre, ci dà la dimensione della realtà che può provare quella donna soltanto se proviamo a immedesimarci in una madre che rivede e interagisce con la figlia morta. Questo è sicuramente un esperimento tecnologico, ma sicuramente ci dà delle chiavi rispetto a quelle che sono le grandi angosce che hanno sempre afflitto l'umanità dall'origine ai giorni nostri, che noi abbiamo variamente elaborato in tante maniere: rituali funerari, rituali di elaborazione del lutto, capacità di avere una sorta di ammortizzatore sociale che ci riportasse a una dimensione dell'accettazione di un lutto. Ma scendo anche di livello, non soltanto le persone morte, le persone scomparse. Immaginate quanto sia ragione della fine della serenità di una persona, un amore che si interrompe, che finisce in maniera inspiegabile, un tradimento. Ma ho fatto tante trasmissioni, la gente per un amore interrotto è capace di uccidersi, di uccidere, di fare tragedie, di rovinarsi la vita. Quale problema? Abbiamo campionato la persona con cui ci siamo amati per un periodo della nostra vita, possiamo riproporcela, possiamo in una maniera onirica vivere accanto a lei, continuare a vivere accanto a lei una storia d'amore. Siete d'accordo che questo possa accadere? E se accadesse, se io avessi in mano la meravigliosa macchina della rievocazione, della riesumazione, il medium per eccellenza, il medium nella sua accezione primaria era colui che ridava vita, esistenza, ci permetteva di colloquiare con persone scomparse. Ecco, il medium per eccellenza è la declinazione più avanzata di tutte le macchine di visione che abbiamo avuto tra le mani, dalla lanterna magica alla televisione, agli smartphone, ai social network. Ecco, la macchina vera di rievocazione di persone scomparse cambierebbe secondo voi la società, e semmai in che maniera voi la usereste? 800240024. Antonio Laudanzi, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno. Antonio Laudanzi è un umanista digitale, così si definisce, è un project manager, un docente, ha fondato Marte 5, una delle prime agenzie in Italia specializzate in realtà aumentata e realtà virtuale. Lo abbiamo avuto già ospite, che è autore di Niente sarà più come prima, come la quarta dimensione digitale scambiando relazioni, comportamenti ed economia. Dario Flaccovio, editore. Allora, Antonio Laudanzi, rispetto all'ultima volta siamo incontrati, questo è veramente un'idea che potrebbe cambiare la società? Sì, assolutamente. Io mi aspettavo che prima o poi qualcuno uscisse con un progetto del genere. Di questo tema ne parlo anche nel libro insieme a un esperto di intelligenza artificiale che è Alessio Semoli, con cui appunto abbiamo condiviso anche questa considerazione. Perché la verità è che ciò che ci restituisce la sensazione di presenza di un'altra persona oggi in buona percentuale è replicabile attraverso la realtà virtuale, e quindi è chiaro che in tutti gli aspetti più fondamentali della nostra vita, dall'appunto la morte, l'amore, l'erotismo, alla mancanza, e piano piano entreremo a vedere sempre più casi di questo tipo. È un'evoluzione della tecnologia che mi aspettavo, che ovviamente piuttosto ha un impatto molto molto forte. Lei ha visto questo filmato coreano? Sì, sì, certo. Ecco, noto che c'è una grande discrezione, naturalmente hanno molta attenzione, sono anche popolazioni molto più attente di noi alla sfera dei sentimenti, alla sfera dell'intimità. E paradossalmente oggi, mentre sto facendo questa trasmissione, c'è una ragazza coreana al di là del vetro, Celeste, che è venuta a trovarci, è una laureata dottoressa che ha studiato anche in Italia, che oggi passava casualmente per questa redazione, quindi sto parlando di questo filmato coreano con una ragazza coreana che mi guarda dall'altra parte del vetro. Detto questo, secondo lei questo dovrebbe cambiare anche alcune regole generali nel considerare i rapporti tra esseri umani, il sentimento, il legame con un'altra persona, che l'abbiamo sempre considerato come qualcosa di astratto. Oggi lo possiamo ricostruire attraverso l'insieme di emozioni che costruiscono quel sentimento. A lei che effetto ha fatto guardare questo filmato? A me mi ha abbastanza toccato, nel senso è un tema insomma che mi coinvolge molto personalmente. E io tra l'altro ho una figlia piccola in età anche di quella bambina lì, e ovviamente lavorando in questo tipo di settore, in queste tecnologie, è ovviamente una considerazione che avevo già incontrato insomma in tempi non sospetti. È chiaro che si è portati, no, a viaggiare anche in ambienti un pochino più oscuri, in risvolti più potenti, ecco, di queste tecnologie. Quindi a me mi ha molto emozionato, chiaramente ho diviso l'aspetto un pochino di... Allora, visto che lei è sul piano delle emozioni, scarnifico questa emozione. Le immagini, sì. Normalmente lei è una bambina piccola, i figli ormai sono cresciuti, però si fanno tante foto ai bambini piccoli, oggi sì. Si fanno tanti filmati, oggi viviamo digitalmente nella ecografia digitale che viene condivisa nei social prima ancora di venire al mondo, quando nostra madre ci partorisce, quindi figuriamoci. sarà il sostituto di tutti i filmini dei bambini piccoli, tutte le foto. Io guardo il figlio di Fedez e della Ferragni, che è il bambino più visto nel mondo in questo momento, perché ogni giorno mettono su Instagram qualunque cosa faccia, gioca, si alza. Fedez stanotte gli ha sporcato la faccia con rossetto e tutti a ridere, milioni di persone. Quel bambino ha già una sua realtà digitale potente che sovrasta di gran lunga quella che sarà la sua vita reale, concreta. Ecco, cominceremo a campionare sin dalla nascita degli esseri umani per avere questa idea dell'immortalità data dal fantasma digitale che continuerà a vivere e interagire con gli umani? È possibile, nel senso che di fatto siamo di fronte a una nuova categoria dell'esperienza, una categoria dove c'è una presenza differita dell'altro, che in questo caso è uno dei casi più profondi, più forti, ma si poteva anche parlare di un animale da affezione, di un gatto o appunto di un ex che è... No, per rendere meno drammatica. Sì, non è detto che sia per forza ci sia un episodio cruento. Una persona non la vediamo, parte in un viaggio, ecco, mettiamola bene, non vediamo più una persona cara per un anno, possiamo comunque interagirci, ma drasticamente. Un grande amore, noi viviamo un grande amore, possiamo dirci il momento dell'acme dell'amore, cioè senti, campioniamoci, perché se uno di noi due un domani lascia l'altro, ci facciamo questo regalo di non lasciarci una ferita così profonda nella persona. Ecco, l'audazia è caduta in questo momento, sto parlando per me e porto avanti la riflessione perché vorrei qualcuno chiamasse. Immaginate, visto che non voglio andarvi a toccare nelle più intime e dolorose vicende della vostra vita, non pensiamo adesso a persone scomparse, genitori, parenti, figli, amici, di cui potremmo comunque avere il conforto di interagirci. E questo interagire non è detto che sia del tutto artificiale, perché interagiamo con quello che è il gesticolare, il parlare comune, e il campionato di questa persona. Alla fine abbiamo un'esperienza come se l'avessimo quasi con questa persona. Ecco, immaginate la fine di un amore. Ecco, la fine di un amore può avere il conforto che ogni giorno rientrate a casa e interagite con la persona che vi ha lasciato, con i quali vi siete abbandonati. E ci sarà una graduale scomparsa del dolore e della sofferenza, una persona che galleggia nei tuoi pensieri, ma in realtà non puoi parlare, non puoi interagirci. Trovate che questo possa in qualche maniera cambiare la società? Secondo me sì, cambieranno le regole, cambieranno i rapporti sociali, cambierà il pensiero, la filosofia, cambierà anche, diciamo, la maniera di percepire l'intangibile. Daniela, buongiorno. Buongiorno. L'ascolto. Buongiorno. No, niente, io purtroppo ho sentito l'introduzione della puntata, poi ho fatto la telefonata, quindi ho perso un pezzetto, però nel frattempo ho riflettuto. Vabbè, io purtroppo mi è mancato mio figlio il 1° dicembre, e in un incidente c'è stata un'esplosione, lui ha perso la vita, sono stati 50 minuti io sola con lui, poi per fortuna è arrivato mio fratello, i soccorsi sono arrivati dopo 50 minuti, lui praticamente è morto in questi 50 minuti. E l'idea all'inizio mi ha fatto paura, questa cosa, e potessi rivederlo e scambiare delle parole, che comunque è appunto campionate, mi farebbe molta paura un'ipotesi del genere. Però poi mi sono messa a pensare, e quando si guarda le foto e quando si guarda i filmini, cioè, a un certo punto è la stessa cosa, forse la troverei utile se magari lui mi dasse delle risposte che mi sono rimaste inespresse. Cioè, ho fatto abbastanza compagnia mentre aspettavo i miei soccorsi, ti ho tranquillizzata abbastanza, ecco, niente, solo questo. Allora, però Daniela, poi... è talmente vicino e fresco il momento tragico che non me la sento di insistere sulla sua vicenda personale, però io le sono molto grato perché mi dà proprio l'occasione di avere una testimonianza sulla carne viva di quello che sto pensando e immaginando. Io lo immagino, in questo momento non ho presenti persone potrei rievocare. In questo tipo di tecnologia è possibile campionare, cioè mettere dentro tutto quello che una persona ha prodotto da vivo, quindi non risposte originali. Se lei fa una domanda a suo figlio e suo figlio non è più fra i viventi, difficilmente, a meno che si rientri in un apparato totalmente illusorio che va assimilato a quelli che fanno parlare le persone con le anime dei morti, queste cose qui che molte volte creano dell'illusorio conforto, ma in realtà alimentano un'illusione e allontanano l'elaborazione del dolore. Potrà soltanto avere una visione più, più intensa di quello che lei racconta, che è il quotidiano lenire il proprio dolore guardando immagini, guardando foto, accarezzando ricordi, guardando filmati. Non le darà mai risposta l'intelligenza artificiale, può solo ricavare risposte che non derivano dalla persona che non c'è più. Le è chiaro quello che ho detto? Avevo pensato io all'inizio, mi ha spaventato, però poi ho pensato che quando guardiamo le foto e quando riascolto i suoi audio su WhatsApp non è la stessa cosa, quindi alla fine non è così terrorizzante, sì, come è stato lo shock iniziale della cosa. Certo, ecco, forse... diciamo, non le dà risposta perché è come un filmato di WhatsApp molto più realistico e con una sua autonomia, ma non c'è niente di nuovo in quel filmato rispetto a quello che ci abbiamo già messo dentro di esistente. Ecco, questa è la differenza, se no pensiamo che possa veramente aprire una porta verso un possibile al di là. La ringrazio, Daniela, ci sentiamo tra un istante. Melog. (0024) Oggi vi proponiamo un esperimento sociale fatto in Corea. Una donna perde una bambina, la figlia di 7 anni, viene ricostruita artificialmente la presenza di questa bambina, la mamma interagisce con la figlia morta. Abbiamo proposto agli ascoltatori questo tema. Ammesso che la tecnologia lo permetta di campionare un essere umano in tutte le sue possibili singolarità, e ammesso che questo possa costituire un'esperienza reale, concreta, emozionale con le altre persone, vi rendete conto come potrebbe cambiare la società se le persone scomparse possono rivivere in un rapporto con i vivi attraverso questa tecnologia? Ma anche gli amori finiti, le tragedie sentimentali non avrebbero più senso, perché avremmo sempre vicino a farci compagnia, come accade comunque anche nelle consuete contemporanee relazioni, l'immagine riflessa a ciò che noi vogliamo, pensiamo e immaginiamo che sia l'altra persona. Ne sto parlando con Antonio Laudazzi, che è un umanista digitale, ha scritto vari libri, tra cui Niente sarà più come prima, come la quarta dimensione digitale sta cambiando le relazioni, i comportamenti e l'economia. In questo caso, Laudazzi, vogliamo spiegare un po' meglio al pubblico? Noi parliamo come se fossimo, dessimo per scontato e tutti sanno. Cosa può essere campionato di un essere umano? Allora, come nel caso della bambina, viene campionata l'immagine, ma attraverso la mole e la diversificazione anche di informazioni che oggi lasciamo spontaneamente, ad esempio sui social, anche l'atteggiamento, le movenze, lo sguardo. Ora, in quel caso la bambina è stata ricostruita con un sistema di motion capture, lo stesso che si usa al cinema, quindi è stata presa una bambina, sono stati registrati dei movimenti e poi applicati al modello tridimensionale, ma molto di questo, attraverso degli algoritmi di intelligenza artificiale che nel tempo si svilupperanno sempre di più, potrebbe essere, non dico automatizzato, ma semi-automatizzato. Lasciamo tantissime tracce che permetterebbero di ricostruire delle copie credibili. Diciamo, il nostro clone digitale è, al momento, alla tecnologia attuale, già possibile nella sua costruzione. Io potrei essere campionato nei miei modi di dire. Immaginate la ripresa delle mie puntate quotidiane per i 40 anni per cui ho fatto radio, ma di me si sa tutto. Ma a questo punto, ne parlavo prima con Fabrizio Intonti, mettendo tutto nel famoso computer quantistico con una capacità di calcolo inimmaginabile, è possibile anche prevenire le mie reazioni. Se domani mattina io fossi morto, Intonti dice voglio fare una puntata con Gianluca su quello che è accaduto oggi, già la campionatura permetterebbe di ricostruire quello che io potrei dire, perché alla fine siamo abbastanza prevedibili nei nostri modi di esprimerci. Tecnicamente sì, in linea teorica sarebbe possibile. C'è sempre comunque bisogno, per adesso e credo ancora per molto tempo, di un intervento umano, di un'intermediazione umana che va a correggere. Però il grosso può essere già impostato attraverso degli algoritmi molto sofisticati, oppure appunto dalla ricostruzione manuale, partendo da filmati, foto. La tecnologia oggi permette di farlo, ecco. Questo poi rispetto a cosa se ne possa fare, Io personalmente vedo due strade che ci suggeriscono anche esperienze come quella della bambina. Una è la creazione di sogni, quindi l'incontro con qualcuno che non c'è più, come altre dinamiche, possono far parte di una fabbrica dei sogni dove il committente va a fornire delle informazioni specifiche per creare queste esperienze oniriche. Scusami Laudazzi, nessuno immaginava, quando si cominciò a parlare di internet a metà degli anni 90 circa, che lo sviluppo sarebbe stato uno strumento, un amplificatore, una protesi emotiva per le nostre relazioni. Se il trend continua a essere questo, noi avremo la possibilità di ricostruire relazioni parallele infinitamente più pregnanti, emozionanti, che semplicemente chattare con una persona attraverso gli strumenti attualmente a disposizione, che già hanno cambiato totalmente il percepire la relazione, il percepire il proprio corpo, il percepire la propria immagine. Un'infinità di cambiamenti sono avvenuti, è un cambiamento proprio antropologico. Sentiamo Paolo. Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno, io vi sto seguendo e non vi sto capendo. Io sono vedovo da 20 anni, ho avuto un'esperienza bellissima con mia moglie, ma a questo punto non avrei la forza e il coraggio di affrontare un argomento del genere. Secondo me è riaprire una ferita che in 20 anni si è, diciamo così, non chiusa, ma è sempre presente, ma la ferita non c'è più. È rimarginata, diciamo. Si è rimarginata. Sì, è rimarginata, però mia moglie è sempre nella mia testa quando c'è, e potrei fare del male anche ai miei figli facendo una cosa del genere. Però io ho pieno rispetto e capisco la sua esperienza, ma come oggi ci sentiamo feriti se una persona non risponde al nostro WhatsApp la mattina, e 10 anni fa era banalmente indifferente per noi avere il contatto costante, continuo con una persona che continuamente faccia vedere che c'è. Lei pensi che una persona che galleggia nei nostri pensieri può corrispondere a un'immagine molto realistica che interagisce con noi? Le generazioni future saranno molto condizionate da quello che è accaduto in questi 20 anni. In 20 anni il mondo è cambiato completamente. Lei guarderà comunque ogni tanto le foto di sua moglie, ricorderà... Sì, ce l'ho sempre lì, ma è sempre lì, ma è sempre... Ma in me non è la foto che mi fa... La foto, sì, però la foto è il supporto che porta all'evocazione. Ecco, ragionare mi aiuta, ma non a rivederla non avrei la forza di farlo. È chiaro, ma questo è semplicemente l'equivalente di una foto molto più realistica, è un'iconografia con molto più realismo, con molta più realtà aggiunta, semplicemente questo. Lo so che è difficile farci conti, ma per mio nonno sarebbe stato impossibile pensare che il suo nipote con un oggetto in mano poteva collegarsi con il mondo intero simultaneamente. Maurizio, buongiorno. Buongiorno, io ho fatto una riflessione di questo tipo, mi avete indotto un po' voi, considerando che gli esperti di intelligenza artificiale pensano che i computer arriveranno a definirci perfettamente, a sapere prima di noi che cosa pensiamo, cosa voteremo, che cosa faremo, abbinato a questo tipo di attività di cui state parlando, potrebbero costruire un profilo non solamente in immagini ma anche morale, di pensiero, e quindi addirittura mi immaginavo che qualcuno potrebbe parlare, che ne so, con suo padre chiedendogli un consiglio, con un amico, su dei temi magari non affrontati che però possono essere sviluppati attraverso un profilo caratteriale di persona. Questo senz'altro, come ci ha spiegato Laudazzi, chiaro, man mano che l'intelligenza artificiale si raffina e ha possibilità di elaborare informazioni, tanto più darà originalità e autonomia all'immagine riflessa. Però immagini, io non ci vedo nulla di particolare, immagini che nel passato, nella contemporaneità, esseri umani si mettono di fronte a un'immagine, considerata immagine sacra, nel pieno rispetto, un santo, un'icona, un riferimento divino, e a quella chiedono consigli, chiedono di interagire sulla realtà, fanno domande e ottengono risposte, è sempre un atto di fede. Oggi, andando avanti in questa tecnologia, l'atto di fede perlomeno sarà riposto in qualcosa che avrà in sé un principio che realmente produce realtà. realtà fittizia, realtà ipotetica, realtà in cui non abbiamo certezza dell'autonomia e della corrispondenza con l'essere umano di cui abbiamo campionato i dati. Ma oggi chi ci dà certezza di quello che pensiamo, immaginiamo, speriamo quando sogniamo una nostra vita, sogniamo una relazione, sogniamo un atteggiamento, un altro essere umano nei nostri confronti, o ci rivolgiamo a un'ipotetica divinità chiedendo una grazia? Ci fermiamo un istante, tra poco. Sono molto felice di parlare in questa occasione e annunciare che lo stracchino 100 grammi nonno Nanni ha una nuova confezione. Grazie! Lo stracchino 100 grammi nonno Nanni è il primo stracchino in confezione biodegradabile e compostabile. La puoi gettare nell'umido e diventerà fertilizzante per la terra. Fai una scelta che piace anche alla natura. Nonno Nanni, il nonno più buono che c'è. Leggo qualche messaggio di persone indignate, spaventate, terrorizzate di quella può essere la deriva se questa tecnologia diventa di uso comune, e diventerà di uso comune, perché immaginate, questo permette l'abbattimento di ogni conflitto, non c'è più dolore, non c'è più rimpianto, non c'è più senso lancinante della scomparsa, ma soprattutto non c'è più conflitto con le persone. Io mi creo l'alter ego digitale di una persona che mi piace, che ho amato, con cui ho avuto dei bei momenti assieme, e poi me la spupazzo come mi pare. Anche nei momenti in cui voglio con lei avere dei conflitti, metto litigata con incazzatura, trombata riappacificante, tac, e ecco ciò quello che voglio. Questo probabilmente ci creerà un'umanità molto diversa da quello che è. Ma abbiamo visto in passato persone che hanno fatto sacrifici umani, hanno fatto guerre, si sono scannati, si sono fatti bruciare, impalare in nome di principi astratti, di qualcosa di cui non c'era comunque esperienza oggettiva comune. Non è la stessa cosa che mettersi di fronte a un tempietto con dentro una divinità, pregare. Non è la stessa cosa che immaginare una persona che non ci vuole più, che non vediamo più, e pensarci, ancora c'è, ancora mi pensa, chissà mi vedrà, oppure un amore finito, scomparso, tracollato, immaginare che magari ci si è sbagliati. C'è gente che uccide in nome dell'accanimento di voler pensare che una persona deve essere come noi vogliamo. Beh, oggi probabilmente con questo succederà un po' meno. Stella, buongiorno. Salve, buongiorno. L'ascolto. No, io riflettevo su questa cosa ascoltando un po' i pareri di tutti, posto che ovviamente poi sono scelte assolutamente soggettive, anche il modo di vivere il dolore è soggettivo, però io trovo che l'assenza di qualcuno, che sia un amore piuttosto che una persona cara, è perfino troppo presente, cioè di per sé una presenza, è una presenza dolorosa, invasiva, che ti stende, che ti taglia le gambe. E quindi io, Stella, le posso che... dire però una cosa sì. Molto cinica. Lei sta parlando di scomparsa nel senso di decesso? No. O di una persona che non ci vuole più. Ecco, mettiamo qui. Sì, ma guardi, proprio pensi, in prima istanza ho pensato proprio alla fine di un amore, di quello che poteva sembrare un grande amore o quello che è. Il tempo ti aiuta ad andare avanti. Così in fondo tu rimani legato a tuo piacimento, cioè quando stai proprio male. Adesso io ho una cosa cinica che mi procurerà odio diffuso, però non so se è mai capitato nella vita, un grande amore sembrava finito, lo rincontro dopo un po' di tempo e c'è il periodo della minestrina riscaldata. No, grazie, minestre riscaldate sono finite. Vede come funziona. Anzi, non sono mai iniziato. Se il grande amore perduto esce fuori dalla sfera romantica del lancinante desiderio della persona che non c'è e poi lo rincontra e ci ripassa insieme qualche settimana, si rende conto, dice, io sono stato male, sono stata male per sta roba qua, ma figuriamoci. Ah, certo, e quindi... quello sì, sicuramente. Beh, però è vero pure che mi pare di aver capito che in questa realtà aumentata non c'è una reale possibilità di scambio, cioè sei tu che te lo spupazzi, come dice lei, ma in realtà non c'è una risposta. Eh sì, però guardi che questa cosa avviene un po' anche nei rapporti reali, molte volte è la nostra interpretazione, l'atteggiamento nei nostri confronti. Una persona, che ne so, gli troviamo addosso segni sulle mutande, diciamo, ma no, via, sarà stato un problema in tintoria, e non pensiamo che magari corrisponde a un comportamento che potrebbe farci male. Noi vediamo sempre quello che vogliamo vedere, diciamoci la verità, non siamo mai oggettivi e realistici. E ce la raccontiamo, ecco. Sì, ce la racconteremo su qualcosa che almeno c'è dietro l'intelligenza artificiale, che ci fa il racconto più adeguato al nostro benessere. Antonio Laudazzi, stiamo andando un po' troppo oltre. Qualcuno mi chiede anche se questa sorta di illusione può essere trasportata anche su un piano effettivamente sensoriale. Le famose protesi tattili legate, diciamo, all'esperienza virtuale, per non entrare nel rango detestabile della teledildonica, che magari non è proprio un argomento da trattare a quest'ora. Sì, l'ambito, diciamo, delle tecnologie indossabili per restituire dei feedback che in gergo si chiamano aptici, sostanzialmente sono dei feedback che simulano e ingannano il nostro cervello, facendogli percepire sensazioni come il peso, il tatto, la superficie, quello sì, ci stanno lavorando. Lo spiego, una tutina con dei sensori ci darebbe anche l'impressione tattile di toccare, di avere un contatto fisico, di accarezzare la persona. Basta mettere un guanto con i sensori, abbiamo la sensazione. Immaginate i sensori messi in qualunque parte del corpo, abbiamo sensazioni anche viscerali che ci dà una persona. Sì, sì, sono cose che già esistono, che ovviamente sono in via di sviluppo e di miglioramento, ma già esistono. E poi è chiaro che la realtà virtuale non necessariamente deve arrivare a restituire una completa copia di quella che è la realtà fisica. Può semplicemente servire allo sviluppo di alcune dinamiche. Per tornare all'esempio dell'elaborazione del lutto o dell'abbandono, una realtà virtuale che magari supervisionata da un terapeuta aiuti a gestire questo tipo di dinamiche psicologiche, non necessariamente deve riprodurre al 100% tutte le sensazioni. Qui entro in un dominio che a me comincia a far paura, perché dipende chi è la persona che condiziona la nostra sensazione. Le immagini. Si può creare, immagino, come il Tamagotchi, che fu un giocattolino, ci piaceva molto il pulcino che allevavamo. Noi potremmo crearci un figlio virtuale, farlo crescere, vederlo sviluppare e seguirlo in tutta la sua vita, per assurdo. Sì, sì, è qualcosa che può succedere, assolutamente. Non ci sono dei limiti tecnologici. O invecchiare assieme a una persona, accelerando i tempi, dicendo voglio vedere come sarà il rapporto con questa persona nell'arco di 30 anni, accelerando i tempi, in un mese mi vedo vicino una signora di 70 anni che ho conosciuto come trentenne. Tecnicamente sì. Io sto citando dei paradossi, vede che lei mi risponde sempre che in realtà questo è permesso. E volete che questo non cambi radicalmente la nostra concezione dell'esistere? Ci fermiamo qua, ma riprenderemo questo argomento. A presto.